America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. We see that this is a great opportunity to drive our science and innovation based. Ecco, la voce che avete sentito è di Werner Baumann, l'amministratore delegato della Bayer. Ha fatto delle dichiarazioni di nuovo ieri per dare il contesto strategico di questa offerta, abbastanza incredibile, di 62 miliardi di dollari in contanti per comprare un concorrente, il colosso agrochimico Monsanto. Baumann dice: è una grande opportunità per proiettare verso il futuro il nostro modello aziendale basato sulla ricerca e sull'innovazione, punti di forza della Monsanto. Siamo quindi convinti e impegnati a lavorare su questa transizione. Ecco che cosa è successo: che dopo l'offerta dell'altro giorno, ieri la Monsanto ha respinto, il Consiglio si è riunito, ha detto che il prezzo è troppo basso, quindi è partito un negoziato che secondo me alla fine in un modo o nell'altro si chiuderà. Però c'è qualcosa di più in questa operazione, devo dire. Non solo che la Bayer mette l'ipoteca su circa il 50% del mercato globale dei fertilizzanti e dei prodotti agrochimici, un mercato di decine di miliardi di dollari, ma qui veramente si tocca con mano, secondo me, la grandezza, la potenza economica della Germania. Perché chiediamocelo, quali altre aziende europee avrebbero potuto mettere sul tavolo questi 62 miliardi di dollari in contanti per procedere in questa fusione? Ben poche, sicuramente nessuna azienda italiana. E dunque pensiamo a noi, vuol dire forse che siamo fuori dal processo della globalizzazione? Un'operazione di questo genere riallinea le posizioni? Ecco, sono domande secondo me importanti, riflessioni importanti, soprattutto in questo momento storico europeo. E ho con me per discuterle ai microfoni di America 24 Mario De Aglio, economista, professore all'Università di Torino. Buongiorno, professore. Buongiorno, buongiorno. Allora, qui la Germania ha dimostrato grande potenza, credo, perché tra l'altro poi in America con la Siemens ha 100.000 dipendenti, con la Bertelsmann si è comprata la Random House, che è la più importante casa editrice di libri americana, poi ha fatto la fusione con la Penguin, 25% del mercato mondiale dell'editoria, Volkswagen, BMW che hanno le loro fabbriche qui negli Stati Uniti. Ecco, è uno scatto in avanti della Germania che lascia indietro tutti gli altri europei? In un certo senso sì, la Germania finalmente, dico io, fa uso di quel gigantesco tesoro di liquidità che il resto d'Europa le ha portato investendo in titoli di Stato, titoli di vario genere, purché tedeschi, proprio perché la Germania è stata vista come l'oasi di stabilità, crescita, pace civile, pace sociale, eccetera. Finora i tedeschi avevano fatto poco sul piano industriale, le operazioni che tu menzioni sono di qualche anno fa, ma negli ultimi anni erano rimasti relativamente assenti, adesso tornano alla grande con un'operazione di quelle che modificano l'intero settore globale. Ecco, infatti, però, diciamolo, è un'operazione per l'acquisto di una società esistente, non è che investono, come tutti chiedono alla Germania, in investimenti per esempio infrastrutturali o in politiche fiscali espansive per cercare di restituire all'Europa. Qui è la Germania che pensa come sempre, aggiungo come sempre, un po' soltanto a se stessa. Direi di sì, direi che quelli che hanno i primati di solito pensano poco a quelli che stanno sotto. Tu dicevi prima che nessuna società italiana può mettere in campo cifre del genere, hai ragione, però se scendiamo di un gradino, le società italiane, i gruppi finanziari italiani che possono farlo sono parecchi. Quindi non dobbiamo lagnarci se un gruppo tedesco fa solo un'operazione finanziaria. Ricordiamoci che se l'Europa come tale esce dalla chimica, perde oggi il suo principale perno di aggancio con l'economia globale. Però c'è una cosa che mi preoccupa, soprattutto se dovesse vincere Brexit, e c'è una conseguenza implicita di cui forse gli inglesi non se ne rendono conto perché li riguarda direttamente, ma se escono dall'Europa, di fatto lasciano l'Europa sotto il dominio totale della Germania, non ci sarebbe più un contrappeso importante come quello della Gran Bretagna. Sei d'accordo che questo è un rischio di cui gli inglesi dovrebbero tener conto nel loro stesso interesse? Credo di sì, sono d'accordo con una piccola precisazione, che già oggi il peso degli inglesi è fortemente diminuito sul continente e quindi di fatto stanno già lasciando la scena continentale in mano ai tedeschi. In realtà la speranza dell'economia italiana è proprio di poter continuare in questa dimensione, scoprendo dei settori nuovi. Non a caso le start-up in Italia stanno aumentando fortemente, con un buon contenuto elettronico e informatico, e quindi presentarsi al mondo non come grandi potenze industriali, ma magari come gli artigiani specializzati del mondo, e su quello costruire una vita decente per il paese. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho sempre con me ai microfoni di America 24 Mario De Aglio. Allora, Mario, vuoi aiutarci a scegliere la canzone di oggi? Abbiamo parlato di Germania, di America. Che cosa ti viene in mente? Cosa puoi suggerire ai nostri ascoltatori? Mi è venuta in mente una canzone che ricorda un'automobile tedesca, che però è una canzone americana, e che fa proprio vedere come la Germania ha sempre avuto questa propensione alle cose grandi che toccano tutto il mondo, mentre l'Europa molto meno, tant'è vero che la Fiat per fare questo è diventata americana per metà. La canzone, che ha anche un ritmo estremamente robusto, vogliamo dire di industria avanzante in un certo modo, è di Janis Joplin e si intitola Mercedes-Benz. Mercedes-Benz, beh, non poteva essere più appropriata, di Janis Joplin. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!